come un cartellino rosso, cioè una squalifica. Dopo aver detto il vaffanbicchiere al direttore generale della Rai Masi, Masi, 2 settimane di stop per Santoro. Questa sarebbe la proposta che porterà il direttore generale della Rai in consiglio di amministrazione. 2 giornate di squalifica, come nel calcio. Ora il GR. 24 mattino. L'intervista. Quando sono le 8:22 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, il protagonista della nostra intervista. Lo ringrazio molto per essere con noi in diretta. È il portavoce del governo israeliano, l'ambasciatore Avi Pasner. Ambasciatore, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, ambasciatore, sono ore di tensione per quel che riguarda la pace in Medio Oriente. Ieri è scaduta la moratoria sulla costruzione di nuovi insediamenti in Cisgiordania da parte del governo israeliano. Le chiedo innanzitutto perché il governo Netanyahu non ha prorogato questa moratoria. Semplicemente perché 10 mesi fa siamo stati d'accordo di fare questo moratorio per incoraggiare il processo di pace. Per 9 mesi e mezzo i palestinesi avevano detto che questo moratorio non ha nessun valore e che non gli interessa ciò che Israele fa o non fa. E soltanto 2 settimane fa sono venuti al tavolo del negoziato, e noi abbiamo detto tutto il tempo: questo moratorio è un gesto di buona volontà, è per 10 mesi, non un giorno di più, e che se volete parlare con noi venite a parlare senza condizioni e possiamo parlare di tutti i problemi, incluso un futuro moratorio, però è un negoziato fra di noi. Però le chiedo, ambasciatore, il fatto se ora i coloni inizieranno a costruire nuovi insediamenti, questo potrebbe essere un ostacolo per la pace? I palestinesi dicono di sì. Non c'era nessuna costruzione di nuovi insediamenti. Nessuna costruzione di nuovi insediamenti. Ciò che facciamo è una costruzione moderata, responsabile, soltanto negli insediamenti che già sono, e questo è perché uno non può surgelare la vita. La gente si sposa, nascono dei bambini, c'è bisogno di scuole, c'è bisogno di ospedale, c'è bisogno di aggrandire le case. Tutto ciò che facciamo è in una maniera responsabile, moderata. Non ci saranno nuovi insediamenti. Lei dice non nuovi insediamenti, ma al limite nuove costruzioni negli stessi insediamenti, perché nascono i figli, ci sono le famiglie. Certo, però gli americani, certo, si sono detti delusi a livello di segretario di Stato da questa mancata moratoria. Però gli americani hanno mandato oggi il senatore Mitchell, che lui è il mediatore, lui arriva oggi in Israele per vedere come trovare una soluzione a quel problema, perché noi lo diciamo un'altra volta, noi chiamiamo i palestinesi non lasciare il negoziato, ci sono delle differenze, per questo c'è un negoziato. Noi vogliamo continuare la trattativa con i palestinesi. Durante 18 anni abbiamo parlato con i palestinesi e nello stesso tempo c'erano delle costruzioni negli insediamenti e non c'era nessun problema. Questo è un nuovo problema, una precondizione palestinese per il negoziato, e noi non possiamo accettare nessuna precondizione, come noi non diamo ai palestinesi nessun ultimatum, nessun precondizione, anche noi non possiamo accettare una precondizione. Le chiedo, ambasciatore, per concludere, Ahmadinejad, che si presenta all'ONU e dice dietro all'11 settembre ci sono gli americani, e la mano tesa, qualcuno dice, di Obama all'Iran su un possibile dialogo, vi spaventa? Io credo che già Obama ha provato per un anno e mezzo il dialogo con Teheran, non ha riuscito e niente, perché uno deve capire Ahmadinejad è un pazzo illuminato, fanatico, fondamentalista. Uno non può avere un colloquio con un uomo come Ahmadinejad. Abbiamo visto ciò che ha detto e fatto a New York. Però sì, gli americani pensano che loro possono avere dei risultati così bene, però io credo che finalmente dovremo trovare altre soluzioni come sanzioni internazionali, sanzioni molto dure contro l'Iran, perché il dialogo con loro non va e non darà nessun risultato. La ringrazio, ambasciatore, per essere stato con noi. Grazie, ambasciatore Avi Pasner, il portavoce del governo israeliano, il governo Netanyahu. Grazie per essere stato con noi, ovviamente da Gerusalemme. E allora, noi ci fermiamo per pubblicità e meteo. Poi parliamo di che cosa? SPQR. Sono porci questi romani. La battuta, qualcuno dice, non è una battuta, è proprio questo che vi chiediamo. È una frase così da derubricare a battuta? Oppure è una frase grave che ha fatto anche arrabbiare molti, quella che ha detto Umberto Bossi. Sono porci questi romani. 24 mattino. E allora le 8:34 minuti, sono porci questi romani. La frase di Umberto Bossi, vi chiediamo, secondo voi nel nostro sondaggio, è una battuta, è un qualcosa che va preso così, oppure è una frase seria, una frase grave? Bianco o nero? E vi odio a voi romani, io vi odio tutti quanti, brutta banda di ruffiani ed intriganti, camuffati bene o male da intellettuali assanti. Io vi odio a voi romani, tutti quanti. Non vorrei mettere a dura prova le coronarie del presidente della provincia di Roma, Nicola Zingaretti, buongiorno. Del Partito Democratico, le abbiamo messo anche Alberto Fortis, così a voi romani. È una bellissima canzone. Bellissima. A parte il testo, forse. Vabbè. Saluto anche Matteo Salvini della Lega, europarlamentare, buongiorno Salvini. Buongiorno a tutti. Non so, forse Radio Padania insieme al Va Pensiero la passate questa in questi giorni di Alberto Fortis. Passata 10 minuti fa e peraltro è stata scritta negli anni 70, quando né Bossi né la Lega avevano ancora iniziato a lavorare. Un precursore della Lega. Allora il 63% per ora votando su Radio24.it dice no, è una cosa, non è una battuta, non si può derubricare tutto a battuta. Presidente Zingaretti, il fatto che la politica si interroghi su questo già un po' si potrebbe anche... Possiamo anche cimentarci anche noi sul fatto che appunto siamo qui a discutere di questo, però il dato di fatto è che la cronaca ne sapeva i giornali di questa battuta, c'è, battuta o non battuta. Lei come l'ha presa, a parte immagino il fastidio anche? Ma guardi, io come un po' accennava lei, penso che il problema fondamentale è che sia innanzitutto una grande perdita di tempo e che un ministro con un paese ridotto come il nostro, col 30% di disoccupati, le fabbriche comprese quelle del nord che non riaprono, invece di pensare allo sviluppo del paese, magari a fare qualcosa per i cittadini, anche quelli che lui dice di rappresentare, va in giro a fare queste battute, è il segno quello di una crisi. E infatti io penso che non è né una battuta e né niente di diverso che un'esigenza politica della Lega di galvanizzare ed eccitare il proprio popolo, il proprio elettorato per nascondere un bilancio di governo devastante se non inesistente. E quindi tocca le corde di un umore di un certo elettorato, assolutamente legittimo come strategia elettorale per rilanciare una sorta di empatia con un popolo da parte di un leader che su queste battute ha fatto la sua fortuna. Ripeto, non ci sarebbe addirittura niente di male se primo non si capisse quanto questa frase può essere percepita come un'offesa da altri, e penso che l'offese a chiunque sia siano rivolte vadano eliminate dal confronto politico, e soprattutto come italiano e mi permetto di dire anche come molti cittadini del nord, della Lombardia, del Veneto, del Piemonte, la vivo più come una scusa per cambiare discorso e magari per non discutere di quegli operai che tornano nelle proprie fabbriche e le trovano chiuse, magari perché da 4 mesi non riescono neanche a fare un minusso per lo sviluppo economico. Tra l'altro, quindi, mi pare una furbata. È una furbata, dice anche un po' la famosa frase di cui si dice la lotta di Lega e di governo, la Lega di lotta e di governo, cioè da una parte il governo, però quando parla al proprio popolo, no, sappiamo era un comizio, credo, a Mispadania, un'iniziativa insomma di questo tipo, no, dà anche un po' sfogo alla pancia dell'elettorato leghista. Magari avrebbero dovuto spiegare a quella pancia di quell'elettorato perché hanno impedito ai giudici di indagare su un accusato di concorso esterno in associazione mafiosa come il sottosegretario Cosentino, che non potrà essere indagato perché la Lega l'ha difeso . E quindi è meglio parlare di romani porci. Che ripeto, è una strategia elettorale che ha un costo. E il costo è che questo è un paese sempre meno credibile nel mondo, perché ecco, a proposito di strategia elettorale, vorrei Matteo Salvini, eccoci qua. Allora, qualcuno anche dice in questo è teorizzatore, nelle analisi che sono state fatte della Lega, Calderoli, cioè quando la Lega è magari sotto pressione per alcune cose, ricordiamo 2 giorni fa l'attacco di Montezemolo, o meglio della fondazione di Montezemolo, la Lega magari una bella sparata per spostare, no, l'obiettivo è far parlare della Lega in un altro modo, no? È un'analisi complicata la mia, oppure semplicemente era a Lazzate e ha dato fiato così, insomma, a quello che gli passava per la testa? No, non costruiamo cose che non esistono. Innanzitutto siamo orgogliosi di quello che il governo sta facendo. Ieri Roberto Maroni era a Milano e, a differenza di qualcuno che la lotta alla mafia e la camorra la fa a chiacchiere da 20 anni, questo governo e questo ministro hanno fatto in 2 anni quello che non è stato fatto in 30 anni in precedenza, quindi orgogliosi di fare quello che stiamo facendo. Le verginelle romane, ovviamente la battuta di Bossi non è riferita ai cittadini di Roma, ma a coloro che l'hanno amministrata o disastrata negli scorsi decenni. Io ricordo al presidente della provincia di Roma che, come altre centinaia di migliaia di persone, sto facendo la tangenziale di Milano e pagherò 2,60 euro. E a Roma non si paga una lira, quindi invece di scandalizzarsi delle battute altrui, venga a spiegare alle migliaia di cretini che al nord pagano le tangenziali per quale motivo, quando abbiamo solo osato prospettare che anche a Roma si pagasse il grande raccordo anulare, c'è stata una sollevazione popolare, ci si è detto ma non possono pagare i nostri concittadini perché a Roma la tangenziale la usano per andare a lavorare, mentre invece è noto che a Milano noi la tangenziale la facciamo perché andiamo a raccogliere funghi intorno a Cinisello Balsamo. 2 numeri poi su Roma, che è un peso alla nazione, come cantava Alberto Fortis 30 anni fa. Il Comune di Roma ha un debito certificato di 12 miliardi di euro, Comune di Roma gestito dai Rutelli e dai Veltroni, quello della festa del cinema, del teatro, delle Olimpiadi, del Gran Premio di Formula 1, eccetera eccetera. La sanità del Lazio ha accumulato un debito di 11 miliardi di euro a testa, quindi se vogliamo parlare delle battute di Bossi lo facciamo. Il problema è che fra sanità del Lazio e Comune di Roma gli italiani hanno un debito che ci spalmiamo di 23 miliardi di euro. Ma qua 46 mila miliardi di lire, altro che battute. Qua Zingaretti, cioè, ci sta mettendo il carico da 90, Salvini, in primo luogo non penso affatto che i milanesi siano dei cretini, anzi penso che il nord del paese sia una delle parti fondamentali dell'Italia e credo che non appartenga a nessuno il diritto di definire qualsiasi cittadino italiano un cretino. Secondo, le cifre di Salvini sono quelle che conosciamo da tempo, omette 2 piccole cose, che quegli investimenti che a Roma sono stati fatti hanno permesso alla capitale del suo paese di essere nel quindicennio passato, poi hanno vinto loro le elezioni a Roma e non è più così, ma questo è un problema dei suoi alleati, è cresciuta un punto e mezzo più dell'Italia. Cioè siamo stati, grazie a quello che abbiamo fatto a Roma, la locomotiva del paese, generando ricchezza anche per tutto il resto del paese. E se Roma oggi è una capitale mondiale competitiva che può rappresentare l'Italia nel mondo, è anche grazie a come questa città è stata amministrata nel corso degli anni. Quindi non solo non ho problemi a rivendicare un lavoro di questi anni, ma ne sono orgoglioso. Per quanto riguarda il gettito fiscale, i romani danno molto più allo Stato di quanto ricevono, e anche qui questa è una favoletta che si racconta, per nascondere che Roma ha il più basso, tra i più bassi trasferimenti pro capite dallo Stato di tutto il resto del paese, anche dei milanesi. Quindi questi sono Che ride Salvini? Perché sono calcoli di bottega proprio degni di un paesello. Ma io non capisco, voglio dire, ma tra l'altro Salvini, Bossi è andato lì al Consiglio dei Ministri, ha firmato Roma capitale. Sì, certo, ha firmato Roma capitale. A proposito della Lega e di governo, a Roma, Zingaretti, governano loro e i loro alleati. No, ma infatti, questa è l'accusa, che viene fatta. La cricca l'hanno difesa loro. Quelli che a Roma oggi sono sotto l'inchiesta di ladrocinio e di depauramento delle risorse dello Stato. La protezione. Insomma, Salvini quasi no, si difende loro. Perché qua la cricca Cosentino che avete votato, qua le accuse sono anche quasi, forti. Quasi mi muove a pietà e da Milano, da Brescia, da Torino mandiamo un po' di denari a Roma che poverina è sfruttata dal resto del paese. Noi abbiamo, faccio un esempio molto concreto, abbiamo avuto i problemi dell'esondazione del Seveso che ha bloccato un terzo della città, il nord Milano, e solo oggi riapre la metropolitana dopo 10 giorni, perché a Roma sono bloccati da un tempo indefinito, da anni, 30 milioni di euro per mettere a posto sto benedetto fiume Seveso. Io ricordo che Roma è l'unica città italiana che ha un benefit annuo fisso di 300 milioni di euro, così, tout court, 1 gennaio 2011 a Roma vanno 300 milioni di euro perché è la capitale, eccetera, eccetera. Ma avete avete firmato in Consiglio dei Ministri una cosa che anche Bossi, Calderoli, i ministri della Lega hanno firmato, Roma Capitale. Cornuti e Mazziati no. Oltre a cercare di tenere unito il paese col federalismo, oltre a continuare a dare una mano a Roma, perché non sono i cittadini che devono andarci di mezzo perché i loro sindaci hanno sperperato quattrini per decenni, oltre a dare tutto questo, poi sentirci dire che in ogni caso è Roma che tiene in piedi il paese, anzi riceve meno di tutti gli altri. Dice, questo, sono appuntato tre dati. Questo no. Vorrei sapere dal presidente Zingaretti se il professor Ricolfi, autore del libro Il sacco del Nord, è un visionario, oltretutto è a simpatie liberali di sinistra. Allora, trasferimenti statali. Io ho fatto il paragone Lazio-Lombardia. Sulla sicurezza il Lazio prende 5 volte di più della Lombardia, sulla sanità solo 4 volte di più. Sulla scuola si accontentano del doppio. Quindi io non so dove prenda lui i dati. Il fatto che Roma sia un costo, perché ha i ministeri, perché ha la burocrazia, ma adesso li volete perché voi, ha migliaia di dipendenti pubblici, adesso vieni a sentirci dire che è Roma che tiene in piedi il resto del paese. No, vabbè, ma adesso sentiamo le informazioni sul traffico, sia sulla tangenziale di Milano che sul GRA, che tutto il resto d'Italia. Poi insomma, i ministeri, pare adesso Salvini ne volete un po' spargere per l'Italia, quindi insomma quei costi magari verranno diminuiti o aumentati, chi lo sa. Le informazioni sul traffico, per entriamo anche qualche ascoltatore. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Detto che il 64% però la giudica non una battuta, quella di Bossi, sono porci questi romani, una cosa quindi seria. Ne stiamo discutendo con il presidente della provincia di Roma del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, e l'europarlamentare della Lega, Matteo Salvini. Sentiamo che ci dice Adriano da Roma, per l'appunto. Adriano, buongiorno. Buongiorno a voi. Che dice? Senta, si è offeso lei? Si è offeso lei? No, pur da romano non sono tanto offeso, perché insomma la frase mi sembra un po' fine a se stessa. Quello che mi lascia colpito è che mi sembra che questi signori della Lega durante la settimana governano questo paese da Roma con i loro giochetti, le poltrone, tutto ciò che è politica. Poi il fine settimana vanno a fare i comizi nei paesetti del nord come se fossero un partito d'opposizione. Insomma, questa mi sembra un po' una nota stonata. La Lega di lotta e di governo, insomma, siamo sempre lì, no? La Lega di lotta e di governo, si governa e si lotta. Ho capito, ma non mi sembra che questo paese stia in una situazione, non mi sembra che abbiano fatto molto per questo paese. Va bene, grazie Adriano. Adesso poi risponderà anche Salvini. Voglio andare a Leonardo dalla provincia di Milano. Sì, Leonardo, buongiorno. Pronto? Sì, Leonardo, eccoci qua. Siamo da lei, se ci vuole. No, andiamo ad Armando, da Napoli. Buongiorno Armando. Oh, buongiorno, buongiorno a tutti. Mi saluto gli ospiti. Dica. È strano che, diciamo, si deve parlare di battute, poi gli ospiti parlano di cose molto molto più serie, quindi perché la battuta nasconde delle situazioni. Credo che Bossi è notoriamente una persona molto spiritosa, per cui ritengo che questa, come dire, sortita sui romani sia da prendere appunto come una battuta, come motto di spirito. Del resto, e quindi anche altre uscite di Bossi sono, penso, da prendere come tali, come la questione che quelli della Lega ce l'hanno duro, no? Come erano tutti, insomma, sono tutte battute che non hanno molta verità, come dire, dietro, che servono per sdrammatizzare un contesto politico, diciamo, appesantito, sia nell'uno che nell'altro caso, sia quando si parla dei romani o di alcune, diciamo così, doti da macio, questo credo che sia un po', come dire, lo stile di Bossi. La prende per quella che è, insomma, una battuta. Zingaretti, secondo lei la Lega fa anche così perché sente puzza o aria di elezioni? Sicuramente. E io infatti non ce l'ho tanto con la Lega, ma quanto con chi gli permette ancora di governare. E anche questa storia del partito di lotta e di governo, mi permetto di dire, non facciamo confusione, perché questo termine fu coniato a suo tempo quando il Partito Comunista Italiano era all'opposizione, ma aveva su tante cose un atteggiamento responsabile e serio per voler andare al governo. Qui la situazione è capovolta, abbiamo un partito che governa e governa ormai da 2 anni, ha governato 4 anni fa per 5, che occupando le poltrone non si assume mai in alcun modo la responsabilità dei suoi atti e, come è stato detto, a Roma occupano le poltrone e il weekend fanno i comizi contro Roma. E a proposito di federalismo, mi permetto di ricordare a tutti che, a parte le parole che fino ad ora abbiamo visto, questo governo è stato il principale responsabile della più vergognosa centralizzazione che questo paese ha mai visto sulle manovre economiche e finanziarie. Hanno tagliato per metà di 24 miliardi della manovra economica le risorse agli enti locali e solo grazie alla nostra opposizione abbiamo impedito lo scempio delle SPA. Le SPA erano delle agenzie di spesa, protezione civile, beni culturali, Ministero della Difesa, per cui si toglievano i soldi ai territori per metterli in grandi poste di bilancio dentro i famosi ministeri romani. Qui come è andato a finire con Bertolaso, Balducci e compagnia cantando lo abbiamo visto. Cioè, dice la Lega, però difende, non so, ha votato per no l'intercettazione a Cosentino, cioè fa queste accuse politiche. Io penso che questo sia il succo dello scambio che sta portando alla crisi questo governo, e cioè una sorta di divisione di ambiti. A Berlusconi tu fai quello che ti pare, basta che ci permetti di fare a noi quello che ci pare, e quindi chiudono un occhio rispetto alle nefandezze che il resto della maggioranza fa. Però le chiedo, Zingaretti, questa storia non tiene, perché questo paese sta fermo in tutti i dati macroeconomici, perché questo compromesso non produce bene per il paese. Le chiedo questa, perché, per esempio, tornando un attimo alle tariffe, perché quando Salvini dice il tangenziale di Milano, che peraltro non è vero che si paghi la tangenziale in alcuni punti, cioè se uno fa gran parte della tangenziale di Milano non è che paga, però in alcuni punti sì, perché invece a Roma no? Perché noi innanzitutto ci sono molti tratti anche qui di ingresso e di uscita per la capitale che sono sotto pedaggio. Secondo, noi abbiamo denunciato che rispetto all'aumento di tasse fosse giusto e sacrosanto che, non dico tutta, ma almeno una parte di quei pedaggi fosse riversata in investimenti sulla mobilità sul territorio. Mi sembra una posizione molto leghista. Cioè, se venivano sul territorio... No, mi permetto di dire che mentre si chiede ai pendolari di avere un balzello, cioè una tassa in più, questo stesso governo ha tolto 450 milioni di euro di trasferimenti agli enti locali sul trasporto, sul TPL, cioè sul piano di trasporto pubblico. Quindi siamo di fronte a uno scempio per cui ancora una volta si prende solo, e questo io lo trovo inaccettabile. Allora io devo Salvini, intanto nel replicare devo dire, vincono, perché ci mandano ovviamente gli ascoltatori, sanguisughe perenni questi romani SPQR, questo è. Anche sti politici quanto rovinano SPQR, e quindi a tutte e due. Però Salvini stravince il bambino cinese che chiede: papà, cosa vuol dire SPQL? Sono porci questi leghisti. Sorrido come fa qualunque persona di buon senso, anche se mi incazzo quando sento il presidente della provincia di Roma, perché ripeto, se io atterro a Malpensa e arrivo a Milano pago l'autostrada, se io atterro a Fiumicino e arrivo in centro a Roma sotto il Colosseo non pago una lira. Poi può arrampicarsi sugli specchi, questo mi sembra un'evidente presa in giro nei confronti di due lavoratori che a Milano pagano e a Roma non pagano. Detto questo, mi spiace che ci sia gente al nord che si ostina a votare per la Lega e per il centrodestra. In questo momento, mentre noi stiamo discutendo, ci sono 400 sindaci che stanno amministrando 400 comuni per nome e per conto della Lega al nord, che evidentemente non passa il suo tempo nei paesetti della Lombardia, ma se è in grado di lavorare e di amministrare. I risultati di questo governo li valuteranno gli italiani, ripeto, un ministro come Maroni qualcuno se lo sogna. Qualcuno ci ha scritto l'Europa. Però Salvini, qualcuno ci scrive, era nel programma anche salvare Cosentino, ovviamente in maniera provocatoria, come ha chiesto anche Zingaretti, cioè salvare Cosentino, guarda, vuol dire basta, votare no alle intercettazioni. Andrà a processo, se sarà colpevole sarà condannato, se non sarà colpevole sarà assolto. Mi sembra che aver arrestato 28-30 super latitanti che prima gironzolavano per l'Italia dice è un successo concreto di questo governo e di questo ministro Maroni. Nessuno ci toglie il dubbio che tutte le polemiche che stanno uscendo dalla casa Monte Carlo, Montezemolo, a Casini, a Veltroni che torna sulla scena politica e tutti lo attendavamo, siano dettate dal fatto di voler fermare il federalismo, che è l'unico modo per far ripartire il paese. Ed è lì che la Lega dice alle elezioni o federalismo. E che ovviamente ha un principio di fondo, che la siringa o la TAC o l'intervento alla prostata devono costare uguale in tutta Italia, mentre secondo i dati a nostra disposizione, per i farmaci, giusto per stare per parlare di aspirine e dintorni, devo chiudere. Nel Lazio si spende il doppio che in Lombardia, quindi o nel Lazio sono più malati oppure spendono male i loro quattrini. Va bene, mi devo fermare. Grazie a Nicola Zingaretti, presidente della provincia di Roma, e Matteo Salvini della Lega europarlamentare. Ci fermiamo qui con Antonella Migliaccio in redazione e Peter Bescapè, che si ostina a non portare la sua penna nera d'alpino qui. Vabbè, pazienza. Ci fermiamo a Oscar Giannino, ci troviamo domattina alle 7:20.